Intesa San Paolo, Official Global Banking Partner di Expo Milano 2015. Vi presenta... America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. Vi avevo detto che avremmo un po' ripercorso i grandi eventi di agosto e devo dire uno dei più importanti è stato sicuramente quello del 14 agosto. Sentiamo cosa è successo. The process of fully normalizing relations between the United States and Cuba will go on. It may be long and complex, but along the way, we are sure to encounter a bump here and there and moments even of frustration. John Kerry, segretario di Stato americano a Cuba, a L'Avana, è un fatto ovviamente storico, scontato perché sapevamo che gli accordi erano già stati tutti firmati, siglati, eccetera, eccetera, però devo dire un fatto storico denso di grandi implicazioni, ovviamente per Cuba, per l'apertura nei confronti del Sud America, per un nuovo rapporto che gli Stati Uniti avranno con il Sud America, ma anche perché, si chiude un capitolo tragico, diciamo, un capitolo di guerra fredda che sembrava interminabile, l'ultimo residuo della guerra fredda scompare. Ma oggi io non vorrei raccontarvi degli accordi commerciali e delle prospettive politiche, vorrei raccontarvi invece una storia molto interessante che riguarda Cuba e che indirettamente così ho potuto partecipare a quella che secondo me era un'apertura di Cuba rispetto alla percezione di chiusura che c'era qui negli Stati Uniti. E cioè mi è capitato di andare al matrimonio di un carissimo amico che si chiama Rufus Albemarle, il quale ha deciso di sposarsi a Cuba. Perché? Perché un suo antenato, George Keppel, che era il terzo Earl of Albemarle, aveva conquistato Cuba in una battaglia durissima contro gli spagnoli. Questa conquista di Cuba, fu un fatto molto importante perché nello stesso tempo la Gran Bretagna sconfiggeva gli spagnoli anche in Estremo Oriente, quindi si imponeva come grande potenza imperiale. E dunque ci fu alla fine un negoziato. Attraverso questo negoziato la Spagna decise di dare agli inglesi la Florida, che così divenne parte del Nord America e quindi successivamente degli Stati Uniti, in cambio della restituzione di Cuba. Ecco, questo è stato l'episodio che ha ispirato Rufus Albemarle, oggi decimo Earl of Albemarle, conte di Albemarle, e io ho con me ai microfoni America 24 proprio Rufus Albemarle, che ci racconta com'è stato possibile organizzare un matrimonio aristocratico britannico a Cuba. Buongiorno Rufus. Buongiorno Mario. Eccoci, bene caro Rufus. Allora, intanto voi sarete sorpresi perché sentite che Rufus parla italiano perfetto. Come mai Rufus? Sì, sono cresciuto a Firenze dove mio padre è andato a vivere lì dal 58, generalmente sono chiamato un anglo-becero. Ho capito, infatti si sente che c'è un po' di cadenza, come si dice, toscana nella tua parlata. Dunque, raccontaci, come sei riuscito ad avere la possibilità di celebrare una cerimonia protestante nel convento dei Francescani, ad avere la possibilità di fare una festa in piazza e così via, quando Cuba era in pieno regime castrista e in piena guerra fredda con gli Stati Uniti? Abbastanza, diciamo, interessante questo fatto che Castro sempre pensa degli inglesi come i liberatori dagli imperiali, in altre parole hanno liberato loro dai spagnoli. Così ogni notte alle 9:30 c'è il cannonasso dove i redcoats, i soldati inglesi, sparano il cannone per dire al popolo di Havana che liberazione dai spagnoli è stato creato dagli inglesi. Ecco, ma il collegamento, tu avevi qualcuno che conoscevi? C'è stato questo collegamento storico che ha funzionato? È partito prima del matrimonio, quando sono andato a visitare Cuba, su una cosa storica. Ovviamente la mia famiglia ha avuto molto che fare con tre fratelli che sono andati con l'evasione, un ammirale, un capitano e un generale. Il generale George è stato governatore di Havana dal 1762 per un anno e mezzo, e in quell'anno hanno avuto più navi nel porto di Havana che c'è stato mai nella storia dei spagnoli, e così ovviamente i cubani sono molto favorevoli verso gli inglesi e mi hanno aiutato a creare questo matrimonio. Tu sei riuscito però, come dire, a ottenere che venisse per la prima volta in circa 300 anni, oltre 300 anni, un padre protestante a celebrare il tuo matrimonio. Che ricordo hai di questi momenti? Raccontaci un po' come sono andati. Ma prima di tutto mia moglie era molto messa a fare questo matrimonio splendido e è stato aiutato grandemente da il de facto, chiamiamolo questo, governatore di Havana, che si chiama Eusebio Leal, che tuttora è lì. E lui è parte di in effetti una società che si chiama Habanex, che tiene il centro storico dell'Havana intatto, perché hanno paura che quando gli americani vengono mettono un McDonald's accanto alla cattedrale. Infatti la cattedrale non c'è più perché è stato abbattuto da Battista, e Eusebio Leal tiene la parte storica di Havana come un circuito chiuso, una comunità che paga le sue tasse, che ha il suo polizia e che tiene tutto in controllo e paga una tassa a Castro. In questo modo è stato possibile creare un matrimonio nella parte storica, con tutti quanti i servizi, diciamo, andando dai hotel al vino, tutto sotto l'ombrello di Habanex. Ho capito. E senti, adesso che c'è stata questa svolta storica, qual è il tuo auspicio per la nuova Cuba aperta all'America e al mondo? Ma io penso che prima di tutto è già messo in piazza, diciamo, la protezione del Havana vecchia da Habanex e Eusebio Leal, così non vedo il centro di Havana che viene corrotto da un stile americano. Direi più che i cubani, gli abanesi sono delle persone talmente belle che non cambierà molto, che penso la corruzione non li toccherà, forse non li toccherà come negli anni 50, quando la mafia americana era molto molto concentrata sulla ricostruzione di Havana. Così io vedo tutto il cambiamento è sempre una buona cosa, secondo me. Penso che Havana si salverà e il resto di Cuba si aprirà e vediamo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di Cuba. Rufus, sei sempre in linea con noi, spero. Rufus. Sì, sono qua. Rufus, eccoci. Allora, una canzone, lancia tu la canzone del giorno, una canzone cubano-americana che ispiri, che porti valori. Oggi siamo aperti. Questo artista volevo averlo per il matrimonio, ma non era in Cuba al tempo, e era Ibrahim Ferrer, che una delle sue canzoni che adoro è Bruca Manigua, Son Afro. Sì, la conosco, una canzone romanticissima e mi sembra adattissima, Rufus. Grazie per dare questa prospettiva di libertà. Ibrahim Ferrer, Bruca Manigua. Son carabalí, negro de nación, sin la libertad no puedo vivir. Munde le caba con mi corazón, tanto maltrata. Ya me netaba.